Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! E buongiorno a voi, allora andiamo, che sia arrivata l'estate, ce ne siamo accorti per il caldo e per la luce, che è la cosa dell'estate che a me piace di più, ma questo è un dettaglio trascurabile. Più importante invece è capire che effetto produce la luce sui nostri occhi. Ogni anno arriva puntuale la raccomandazione degli oculisti, che alla stessa stregua dei dermatologi per la pelle ci invitano a riparare i nostri occhi dal sole, perché ormai è provato che la mancanza di protezione nel breve e nel lungo periodo produce danni sia nel breve che nel lungo periodo. Se volete vederci chiaro, quindi restate con noi. 800 24 00 24. In studio con me è tornato a trovarci il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo subito da un confronto, dato che voi oculisti vorreste che noi dedicassimo la stessa cura che dedichiamo alla pelle e ai nostri occhi. La pelle reagisce all'aggressione dai raggi solari producendo melanina, che ci regala l'abbronzatura, ma che in realtà è un meccanismo di protezione. Certo. E gli occhi come si comportano? Hanno dei filtri, dei meccanismi di protezione? Ma i poveri occhi soffrono non silenziosamente, perché si irritano, si arrossano, ci danno fastidio, poi ci lamentiamo della congiuntivite, abbiamo guardato il sole e l'acqua del mare senza protezione, e quindi a un certo punto del pomeriggio, dopo un'intera giornata sulla sabbia, gli occhi diventano degli spilli sabbiosi. E allora perché? Ma perché questo? Perché non ci siamo protetti, particolarmente ovviamente le persone che hanno gli occhi chiari, ma c'è una fotofobia intrinseca di persona a persona che non sempre si può vedere dall'esterno. Il fondo dell'occhio chiaro, cioè quello che ha meno pigmento interno al di sotto della retina, fa riflettere maggiormente la luce. Quindi c'è un glare, un abbagliamento interno che può essere, come dire, congenito, connaturato alla singola persona. Quindi è vero, ci sono delle persone che sono molto sensibili. Esatto. Anche al semplice riflesso, al riverbero prodotto da superfici chiare, oltre che alla luce artificiale particolarmente intensa, perché non solamente la luce solare. Sono le persone che al mattino già le vedi che escono di casa già con l'occhiale da sole. Chi invece è più corazzato, che gli occhiali da sole li indossa solo in casi eccezionali, solo magari quando è veramente intensa la luce, quindi nelle ore centrali della giornata, o quando c'è quel riverbero strano, il cielo è nuvoloso, ma c'è una luce d'agosto. Che esatto, è accecante. Esatto, quelle sono persone fortunate ma che sbagliano. Riprendendo il paragone con la nostra pelle, potrebbe essere quelli che hanno il fototipo molto chiaro. Esatto. E quelli invece che hanno il fototipo un po' più scuro. Che hanno il fototipo scuro, che pensano o sperano di essere indenni da qualsiasi cosa. Fra l'altro colgo l'occasione per dire che quelli che poi sono molto sensibili, spesso hanno anche, qualche volta diciamo, hanno anche una reazione muscolare a questa offesa della luce, per cui nel tentativo di difendersi strizzando gli occhi quando non hanno gli occhiali, irrigidiscono i muscoli del collo e spesso magari poi gli viene mal di testa. Certo, e di questo parleremo con il professor Di Pietro, osteopata, nel corso della trasmissione, per cui se avvertite delle tensioni muscolari cerchiamo di capire se è anche la posizione del nostro capo, e se può dipendere anche dagli occhiali, non solo gli occhiali da vista. 800 24 00 24. Dottor Scialdone, ci sono persone che non hanno alcun fastidio alla luce, sono quasi schermati, però ricordiamo, senza fare terrorismo, che le radiazioni solari, come fanno invecchiare la pelle, invecchiano anche il nostro cristallino, perché voi oculisti state notando un aumento di cataratta anche tra persone giovani. Questo per dire che patologie oculari che per tanto tempo sono state considerate un regalo degli anni, in realtà sono causate, possono essere causate in parte da una scarsa protezione, perché come la nostra pelle anche i nostri occhi non dimenticano le offese. È vero, è vero. C'è una fetta di di energia luminosa, soprattutto quella sul blu, che è ad alta energia, sì, passa attraverso la cornea, cioè attraverso lo strato superficiale, e viene filtrata dal cristallino. Filtrata vuol dire che il cristallino l'assorbe, e questa energia in qualche modo si scarica modificando lentamente le proteine del cristallino. Quindi, come dire, è come se ci accelerasse l'invecchiamento in un certo senso. Pensiamo particolarmente per esempio ai bambini. I bambini, a differenza degli adulti, hanno un cristallino molto più trasparente, sì, e quindi anche loro, poi magari lo accenneremo anche successivamente, ne hanno bisogno tanto quanto gli adulti, se non di più. Però lei sa, ha figli, lei, quanto è difficile proteggere i bambini, gli occhiali, gli occhi dei, sì, bambini. Sì, è questione con... di abitudine anche, però, no? Di atteggiamento dei genitori, che, come dire, se si abituano e fanno abituare i bambini, anche quelli poi entrano nella logica. Allora, entrate anche voi nella logica, chiamateci 800 24 00 24, se avete il vostro paio di occhiali da sole tiratelo fuori, perché lo controlleremo insieme, e lo faremo insieme al dottor Francesco Loperfido, responsabile degli ambulatori di oftalmologia generale dell'unità operativa di oculistica dell'Istituto Scientifico San Raffaele e consulente oftalmologo della Commissione e Difesa Vista. Dottor Loperfido, buongiorno. Buongiorno. Dottore, regola numero uno: controllare che noi stiamo tirando fuori gli occhiali da sole, fatelo anche voi e chiamateci. Regola numero uno, controllare che ci sia il marchio CE, quindi evitiamo di comprare occhiali sulle bancarelle, imitazioni di marchi famosi. La stessa regola vale per gli occhiali da sole, naturalmente, dei nostri bambini. Dottor Loperfido, possiamo iniziare con questo? Sì, assolutamente. L'occhiale deve essere fondamentalmente di marca, e quando parlo di marca parlo di marchio CE, giustamente, sì, della Comunità Europea, che è una garanzia almeno di quelli che sono tutti i componenti dell'occhiale, quindi dal materiale della montatura fino alla cosa più importante, al cuore del problema, che è la lente. E soprattutto per i bambini non bisogna sottovalutarli, proprio perché bambini, e dargli degli occhialini che vengono presi un po' per ottemperare il desiderio di avere qualcosa sugli occhi, ma invece proprio nei bambini che sono i più esposti alla luce solare, soprattutto al mare, per le ore che sono lungo la spiaggia, perché lì c'è non solo la luce, l'UV diretto, sì, ma c'è anche il riverbero della sabbia, e quando mai importante per i bambini una protezione non si assoluta. Scherza, quindi iniziamo dal colore delle lenti e sfatiamo subito un luogo comune che vuole che la lente più scura protegga più di quella chiara. Dottore? Assolutamente, è il requisito intrinseco della lente da sole che protegge, quindi non è la lente più scura o più chiara, ma la capacità intrinseca di abbattere una buona percentuale dell'ultravioletto, quindi dell'UV, e non dimentichiamoci di quell'altro pericolo nascosto, che è la luce blu, che è tra l'ultravioletto e il visibile. Chi non ha problemi di vista può scegliere il colore delle lenti con una certa libertà, vero dottore? Sì, chi non ha difetti visivi può scegliere, chiaramente esulo da quelli che sono i colori stranissimi che vedo portare e che tutto sommato hanno più un fattore estetico e modaiolo, sì, da quella che è la realtà, dove i colori classici sono il verde, il grigio-verde Ray-Ban, tipo Ray-Ban, sì, il marrone, che sono i colori fondamentali, che poi diventano invece un requisito essenziale in rapporto poi ad un difetto visivo. Infatti, allora, diamo il colore? Sì, diamo il colore. Il grigio è il colore che... diciamo, va bene più in tutte neutro, va bene in tutte le stagioni, però non va bene con tutto, ma va bene con niente. Poi sì, sono esteticamente poco piacevoli, per questo vengono usati abbastanza poco i grigi, tutto sommato. Il verde è il colore più dell'estate, quello più classico, che fu tirato fuori per l'appunto da Ray-Ban per gli aviatori nel 1930, ed è il colore che va un pochino meglio nelle persone ipermetropi. Però il marroncino invece è l'altro colore che va per la maggiore, e che è quello un pochino più... Dottor Loperfido, quindi indicazioni a seconda del difetto refrattivo? Assolutamente sì, il marrone è indicato proprio per i soggetti che sono miopi o hanno un astigmatismo miopico. Chiaramente più elevato il difetto visivo, più il colore opposto può dare perfino nausea in alcuni soggetti. Addirittura? Sì, ipermetropie molto elevate che portano delle lenti a sole marroni spesso hanno dei fastidi proprio fisici di intolleranza. Io fra l'altro coglierei l'occasione per dire che molte persone che hanno un difetto di vista, a parità di diottrie, dicono di vedere leggermente peggio con l'occhiale da sole. Come mai? E questo è abbastanza frequente, probabilmente dovuto alla dilatazione pupillare sotto l'occhiale, che aumenta o mette in evidenza le aberrazioni dell'occhio, quindi è molto frequente, ma non è un difetto di costruzione dell'occhiale. Domenico ci chiama da Lodi, 800240024. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. La mia domanda era riferita alle protezioni nei bambini. Sì. Avendo un bambino di 4 anni e avendo vissuto praticamente tutto l'inverno in una scuola materna, no, dovendoci recarci in vacanza, recare in vacanza appunto la settimana prossima, sì, cosa mettere sugli occhi, cosa mettere sulla pelle? Dottor Loperfido, bambini vanno protetti, ma sappiamo che non stanno mai fermi, soprattutto in vacanza al mare, giocano, non vogliono avere costrizioni. La visierina può, il cappello con la visierina può già fare qualche cosa, ma voi oculisti suggerite, proteggete gli occhi. Il dottor Scialdone sottolineava, il cristallino dei bambini è particolarmente trasparente, vero? E quindi va in qualche modo tutelato. Dottore. Bene, esistono in questo settore delle aziende specializzate, non solo per quanto riguarda la lente, che deve essere fondamentalmente infrangibile, quindi materiale organico, ma in più esistono delle montature particolari, o con la stariccia o anche comunque con stanghette brevettate e con degli appoggi che sono in silicone, che rendono l'occhiale sopportabilissimo, ma soprattutto anche un occhiale che resiste agli urti, ed è questa la cosa fondamentale. Del resto poi per i bambini emulare un po' quelli che sono gli occhiali dell'adulto, del genitore, può essere un modo per portarli più piacevolmente. E ricordiamo anche, il nostro ascoltatore chiedeva una protezione anche per la pelle, mi raccomando, i bambini vanno protetti, vanno tenuti nelle ore quelle buone del sole, nelle prime ore del mattino. Dottor Loperfido, avevamo già parlato di una applicazione gratuita Sole Amico, nata dalla collaborazione degli oculisti della Commissione Difesa Vista del Ministero della Salute. Questa applicazione che si può scaricare sia sull'iPad, quindi con Apple, sia sull'Android, è molto carina, perché oltretutto, oltre a dare delle spiegazioni dei danni dell'UV, ha anche tre filmati sia dal punto di vista oculistico che dermatologico, consente a chi si iscrive di potersi classificare, quindi carnagione chiara, oscura, occhi chiari oscuri, e nel momento in cui sia l'Android che l'iPad ti segue in montagna o al mare, ti dice quanto ultravioletto c'è, certo, quanta luce solare, quanto UV c'è, e quindi quali sono le migliori lenti che in quel momento possono affrontare il tema della protezione sia dell'occhio che anche della pelle. È come avere un oculista in tasca, un oculista e un ottico, anche meno costoso, consigli anche per la pelle? Consigli anche per la pelle. Quindi due piccioni con una fava. Questo per rispondere al nostro ascoltatore. Andrei da Emiliano, che ci chiama da Chieti. 800240024. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei. Siamo qua. Sì, perfetto. Volevo chiedere, io ho problemi di sonnolenza, anche avendo cambiato diversi tipi di occhiali, ma sempre buoni comunque. Ultimamente ho proprio comprato dei Ray-Ban, che diceva il dottore. Sì. Però mi crea sonnolenza. Volevo sapere se era un problema che esisteva oppure se è un problema proprio solo mio. Magari c'è una spiegazione, e in effetti tra poco noi parleremo con un esperto, che forse a cui sottopereremo il suo quesito. Parliamo con un esperto di medicina del sonno, che ci suggerirà anche dei metodi alternativi per utilizzare gli occhiali da sole. Quindi Emiliano, tra poco forse troveremo una risposta alla sua sonnolenza da occhiali da sole. Sottopereremo il suo quesito al nostro esperto. E intanto passo a Carlo, che ci chiama da Pesaro, e poi abbiamo Nino da Carbonia. Carlo, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a lei, dottoressa, e a tutti i suoi ospiti. Una cortesia. Io anni fa, abusando con del collirio del quale non faccio nome, 83 anni, ho avuto una sgradita sorpresa. Nel tempo mi sono trovato una corioretinite serpiginosa maculare, diagnosticata dal professor Brancato a Milano, famoso oculista, e purtroppo ho perso patente, la mia vista non è più coi ventesimi che avrei dovuto avere, un po' per l'età, ma principalmente forse per quello. Volevo sapere dai suoi ospiti, da chi può rispondermi, se c'è nei tempi recenti qualcosa che possa levarmi da questa agonia, perché morire così con poca vista. Dottor Cialdone, è possibile che dei farmaci, dei colliri possano provocare questo problema? Ma così forse serio? La coroidite serpiginosa è una malattia, un nome difficile. Sì, però una malattia ben definita della retina, che non credo che dipenda dal collirio che ha instillato, magari gli avrà dato dei disturbi, per carità, ma di altro tipo, saranno stati contemporanei. Adesso non so, ora non vorrei aprire un problema, diciamo così, diagnostico terapeutico in questo momento. Potrei però, esiste, visto che parliamo di occhiali da sole, suggerire al nostro ascoltatore, a meno che non l'abbia già fatto, di provare a utilizzare da un buon ottico degli occhiali color rosso arancio, perché aumentano molto il contrasto delle immagini, e quindi chi ha problemi di retina, di maculopatia, può distinguere meglio le giocare cose, sul contrasto. Esatto. In linea con noi abbiamo il dottor Raffaele Manni, buongiorno. Buongiorno a lei. Responsabile dell'unità di medicina del sonno dell'Istituto Mondino di Pavia, che ci suggerirà un nuovo modo di utilizzare gli occhiali, perché possono aiutarci anche ad attutire la sindrome da jet lag. Ma, dottor Manni, le chiedo subito di rispondere ad un nostro ascoltatore, Emiliano, che ci ha chiamato, io l'ho bloccato perché volevo che fosse lei proprio a rispondere, e ci ha raccontato che lui non ha problemi di vista, mette gli occhiali da sole ma gli danno sonnolenza. Io ho pensato che questa potesse essere una domanda per lei, dottor Manni. Sì, inconsueta, ma comunque posso cercare di rispondere facendo subito una premessa, no? La luce attraverso i collegamenti che esistono tra la retina e l'ipotalamo, che è quella regione del cervello che è molto importante per la regolazione del ciclo sonno-veglia, può avere influenza sulla organizzazione appunto del ritmo sonno-veglia, e quindi premettiamo che un'esposizione alla luce, anche alla luce ecologica naturale, dopo il risveglio al mattino, unitamente a una protezione dalla luce nelle ore del tramonto in poi, fino alla sera, con per esempio l'uso di occhiali, favorisce una propensione al sonno serale anticipata, cioè ci fa venire sonno prima la sera. Quindi, questo per alcuni soggetti chiamati gufi, che hanno una tendenza invece a essere iperattivi e molto vigili nelle ore serali fino a tardi, può essere un modo per correggere questa loro tendenza, insomma. Quindi si può spiegare questa tendenza del nostro ascoltatore ad avere questa sonnolenza? Potrebbe essere una spiegazione, questo dipende, ecco, da quando lui li indossa e per quanto tempo, cioè perché... Però sarebbe carino avere degli occhiali che ti aiutano a dormire. Dottor Manni, è facile capire che gli occhiali da sole possono proteggere le strutture del nostro occhio dall'azione dei raggi solari, più difficile, come mi stanno scrivendo, è capire come possono aiutarci a superare la sindrome da jet lag. Quindi ci illumini, parola che non scelgo a caso perché parliamo di luce. Sì, ma la premessa l'ho fatta prima, cioè certo, bisogna pensare agli effetti che attraverso la retina la luce ha su questi centri dell'ipotalamo, che è la parte del sistema nervoso centrale maggiormente coinvolta nella regolazione della azione, anche per esempio la secrezione per via indiretta della melatonina, che avviene a livello dell'epifisi, e sappiamo che la melatonina è un ormone che regola sempre e dà il ritmo del ciclo sonno-veglia. Quindi mettendo l'importante è capire che sia l'intensità che il momento, l'orario in cui noi ci esponiamo alla luce, influenza molto e ha effetti opposti sulla regolazione del ciclo sonno-veglia. Quindi, come ho detto prima, l'esposizione alla luce al mattino e la protezione dalla luce la sera fa in modo che noi la sera abbiamo sonno prima del giorno. Quindi questo vale non solamente per chi si misurerà con la sindrome da jet lag, ma proprio per i gufi. Quindi gufi, sì. Le giornate sono più lunghe, sì. Volete in qualche modo cercare di prendere sonno un pochino prima, portate anche gli occhiali da sola dopo il tramonto. Questa è l'indicazione che possiamo dare. Lanciamo una nuova dopo il risveglio al mattino alla luce. Esatto, lanciamo una nuova moda. Grazie dottor Manni per essere stato con noi. Grazie a voi. Dottor Perfido, intanto una domanda per i nostri ascoltatori. Qual è il dottor Loperfido me l'ha un po' suggerita. Qual è il primo personaggio della storia che ha provato ad usare gli occhiali da sole e come cercava di schermarsi dal sole? Dottor Loperfido, è giusto, vero? Formulata così? Abbiamo dato le indicazioni giuste? La possiamo formulare meglio. Bravo. Con quale modo e in che modo, perché è un po' più precisa, in quale modo si è protetto dal sole e con quale mezzo? Ok, allora avete capito tutto? 800 24 00 24, dovete dirmi il nome di questo personaggio e soprattutto che cosa utilizzava per proteggersi, per ricevere a casa la Sugar Box. Chiamate. Aldo da Roma ci ha invece chiamato forse per una domanda. Buongiorno Aldo. Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io sono un ottico e volevo fare intervento in base alle colorazioni che abbiamo. Bravo, grazie Aldo, così ci dà una mano, mi dica. Allora, ho sentito giustamente, come dicevate prima, che per quanto riguarda le colorazioni sugli occhiali da vista, non tanto su quelli da sole, che per quanto riguarda l'occhiale da miope, anche la colorazione grigia può andare benissimo. Sì. Non ci sono grossi problemi, però molti si fanno ingannare dal fattore estetico, perché sì. Sulla nota marca che avete detto prima la colorazione è grigio-verde, però dal punto di vista, una volta indossato l'occhiale, in realtà il colore grigio non cambia notevolmente l'aspetto estetico dell'occhiale. E poi un'altra cosa che volevo dire è che comunque ci sono dei colori fotoselettivi che possono essere utilizzati per esaltare alcune colorazioni. E a volte questi tipi di prodotti non vengono né consigliati dall'ottico né proposti dall'oculista, a parte i colori medicali come dicevamo prima, l'arancione, il rosso, quelle cose lì. Sì. Quindi magari maggiore attenzione sul fenomeno dei danni UV che possono creare sull'occhio, magari sarebbe più opportuna sia dal costruttore di occhiali da sole che magari dalla componente medicale oculistica. Assolutamente, insomma. Quindi più attenzione, affidatevi quindi a ottici. Cogliamo l'occasione, effettivamente, visto che il nostro amico ottico ha chiamato, eccetera, per dire che a parte il marchio CE, la scurezza, diciamo, degli occhiali viene classificata in 5 categorie. Sì. E questo il nostro Francesco Loperfido lo sa sicuramente bene. E più si va su, quindi quella cosa che possiamo chiedere all'ottico, più si va su con i numeri 0, 1, 2, 3, più aumenta la capacità di protezione dal sole. Certo. Dottor Loperfido, aggiungiamo qualche dettaglio per le persone che hanno problemi visivi e devono stare alla guida, e c'è il fenomeno dell'abbagliamento, e per le persone che invece praticano soprattutto in estate sport, quindi devono stare particolarmente attenti a scegliere la lente giusta. Dottor Loperfido. Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la guida, è molto importante non solo la protezione dall'UV, ma anche il riverbero della luce. Sì. Molte volte il riverbero è la causa maggiore di incidenti, soprattutto uscendo e entrando dalle gallerie. Quindi automaticamente la cosa migliore in questo caso sarebbe quella di fornirsi di occhiali. Molte aziende hanno proprio impostato questo discorso, cioè quello di creare una condizione di lenti particolari proprio per la guida. Sì. In questo caso possono esserci anche una nuova generazione di lenti polarizzate. Io finora le avevo un po' escluse dal mondo della guida, ma hanno fatto delle nuove lenti polarizzate che non solo aumentano il contrasto, il che è utilissimo alla guida, ma quanto hanno un trattamento antiriflesso e antiimbrattamento sulla superficie anteriore e posteriore. Quindi questa è un'opzione valida. un'opzione valida. Per la montagna è molto importante le lenti che proteggono contro il 90% dell'ultravioletto, soprattutto quando c'è neve, perché il riverbero dell'ultravioletto è altissimo. Sì. E in questo caso la cosa migliore sarebbe avere delle lenti che proteggono anche contro la luce blu, e queste sono le lenti alla melanina. Lenti alla melanina. Nino, da Carbonia. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti, ecco, alla trasmissione. Grazie. Tante grazie a tutte. Io volevo sapere, per quanto riguarda una nuova generazione di lenti che l'ottico mi ha consigliato, che sono bianche, però dice che proteggono comunque dai raggi ultravioletti, lenti graduate, circa 3 diottrie. Mi sapete dire qualcosa in più? Dottor Lo Perfido, dottor Cialdone? Sì, sono lenti progressive, sì, fatte con un doppio trattamento particolare che proteggono contro l'UV, però non immaginiamoci che con queste lenti possiamo affrontare né l'Egitto, né nell'Africa e né la montagna. Beh, sono, siamo lenti a casa nostra. In città, che vanno benissimo e che hanno una protezione contro l'UV stabilizzata su protezioni, diciamo, in classe 1, classe 2, però ci sono. A meno che non si ricorra poi alle classiche lenti fotocromatiche, che anche di ultima generazione hanno migliorato moltissimo i loro standard. Dottor Lo Perfido, ripetiamo il quizzettone di oggi, che permetterà al nostro ascoltatore di ricevere a casa la Sugar Box. 800 24 00 24. Dottor Lo Perfido, lei che è un grande esperto anche di tutta la storia degli occhiali, formuli correttamente il quizzettone. Allora, chi è stato il primo uomo della storia che ha tentato di proteggersi gli occhi, e con quale mezzo l'ha fatto? E ha fatto bene comunque, perché, come anticipava il dottor Cialdone, se non utilizziamo gli occhiali da sole, se la luce ci dà fastidio e naturalmente i nostri occhi cercano di proteggersi, e cosa fanno? Si strizzano, si rimpiccioliscono, si mettono in moto una serie di muscoli. Non solamente si vedono le zampe di gallina in modo più evidente, ma dato che i muscoli sono tutti collegati, alla lunga noi possiamo trovarci a gestire tensioni dolorose, mal di testa, mal di schiena. Allora abbiamo chiesto aiuto al dottor Ernesto Di Pietro, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Nicoletta. Eccolo qui. Professore, mi scusi, mi spiega come dietro a un semplice ammiccamento poi alla lunga possa manifestarsi poi un dolore, una tensione? Quindi è meglio godersi la luce con la giusta protezione. Certo, diciamo che l'ammiccamento per rimanere tanto tempo senza occhiali da sole, sotto il sole, non è così semplice come può sembrare, perché mette in moto una marea di muscoli che non abbiamo idea. Se lei pensa a quando strizziamo gli occhi perché siamo abbagliati dal sole per un attimo, abbiamo addirittura gli zigomi che si alzano, la fronte che si abbassa, cioè abbiamo tante catene muscolari che si mettono in moto e chiniamo anche di qualche grado in avanti il nostro collo, la nostra cervicale, portandoci in una posizione innaturale e con una tensione muscolare veramente eccessiva per tanto tanto tempo, troppo a volte, e questo può ingenerare un mal di testa, per esempio, questo mal di testa che probabilmente ha origine anche per altri fattori che sono sempre determinati da questa esposizione eccessiva al sole. Pensiamo soltanto alle vasodilatazioni. Certo. Ma immaginiamo, non anche aggiungiamo come... anche il mal di testa, quello prodotto dalla tensione, come diceva il dottor Cialdone, vero dottore? Certo. Ecco, tra l'altro, nel momento in cui andiamo ad alzare gli zigomi, alteriamo anche la nostra masticazione per un attimo, proprio le nostre articolazioni temporomandibolari, e se abbiamo problemi anche di quel tipo andiamo a risvegliarle. Ecco perché è meglio mettere degli occhiali da sole. Abbiamo parlato di tensione, ma voi siete tesi o siete rilassati? C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Occhiali da sole, quindi, non solo per proteggere gli occhi o per avere più carisma, per nascondersi dietro le lenti, ma anche per evitare di accumulare tensioni che si localizzano naturalmente sulla colonna, sulle spalle, collo. E A proposito di tensioni, dottor Di Pietro, prima di salutarci, facciamo un piccolo test per capire se siamo tesi, contratti, oppure se stiamo bene, siamo rilassati, abbiamo una postura che, insomma, è quella nostra, che per il nostro benessere. Certo, allora vediamo se la luce in questo momento che abbiamo attorno ci sta dando fastidio più del normale. È una cosa semplicissima, ecco, se state guidando fermatevi prima di farlo, per questo motivo, perché vi inviterò a chiudere gli occhi, quindi adesso non possiamo far altro che con molta tranquillità chiudere gli occhi e contare sino a 5 buttando fuori tutta l'aria. Dopodiché ditemi che sensazione avete e vi accorgerete se di colpo vi sentite rilassati, sentite il viso che proprio cade quasi, si rilassa e riprende una sua posizione naturale e ci sentiamo un pochino meglio. Evidentemente prima eravamo tesi. Basta contare fino a 5. Grazie al dottor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale. A presto, buona giornata. Arrivederci, grazie a voi. Buongiorno. Anche a lei. Abbiamo Davide che ci chiama da Varese. Buongiorno Davide. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. È rilassato Davide? Sto guidando. Allora no, per carità, tenga l'occhio aperto. Sempre. No, la mia domanda è la seguente. Io sono leggermente miope, circa un grado per occhio. Porto praticamente quasi tutto il giorno gli occhiali da sole perché la luce mi dà particolarmente fastidio. Occhiali da sole e graduati, chiaramente. Sì. La mia domanda è... ho gli stessi occhiali da circa 5 o 6 anni. Volevo capire se dopo un tot di anni bisognerebbe cambiarli perché magari gli occhiali perdono di una loro certa efficacia. Oppure no? Abbiamo capito, Davide, la ringrazio, Davide, dottore Cialdone. Davide, costano, nulla dura per sempre, neanche gli occhiali. Gli occhiali si graffiano, hanno dei micrografi che avvengono anche involontariamente giorno per giorno nel pulirli, nel lavarli, nel portarli in giro, quindi le lenti perdono un po' la loro capacità di trasparenza, la nitidezza, quindi 5-6 anni, ora non c'è un termine preciso, ma insomma qualche anno vanno comunque cambiati. Mettendo un occhiale nuovo vedrà sicuramente una differenza, non è solo la lucentezza della montatura. Dottor Cialdone, volevo chiederle, stiamo parlando di sole e di luce, ma stiamo per andare in vacanza e molti proprio in vacanza decidono di utilizzare al posto degli occhiali le lenti a contatto. Certo. E sono forse più comode, gli occhiali non scivolano sul naso quando fa caldo perché si è sudati. Evidentemente qualche vantaggio lo daranno, ma anche richiedono il rispetto di alcune regole le lenti a contatto. Diciamo che le lenti a contatto hanno il punto debole delle lenti a contatto è ovviamente l'igiene. Questo è un must, diciamo uno dei principi che deve essere valido per tutto l'anno. Sì. Nel periodo estivo, anche con le migliori abitudini, però andando dentro l'acqua e il mare, ormai il mare pulito non c'è più. Quindi teoricamente l'ideale dell'oculista è la persona che prima di entrare al mare se le toglie. Sì. Questo sappiamo che non è né pratico né realistico. Perché quindi, lei cosa fa? Io non li porto le lenti a contatto. Sì, porto solo gli occhiali. Io porto solo gli occhiali, però pregherei quelli che vanno a farsi il bagno con le lenti a contatto di sciacquarsi bene, bene gli occhi dopo che escono per togliere tutti i residui del sale, di qualsiasi schifezza che c'è all'interno dell'acqua del mare, per non parlare ancora quasi peggio le piscine che sono... Quindi l'optimum sarebbe togliersi queste lentine, fare il bagno e poi rimettersi le lenti. Se proprio non ne potete fare a meno, sciacquatevi bene o mettetevi per favore gli occhialini da nuotatore, quelli di protezione. Dottor Lo Perfido, vuole aggiungere qualcosa? Sì, che gli occhialini possono esserci sia occhialini di protezione neutri sia anche graduati, quindi c'è anche questa possibilità. Quindi uno si mette gli occhialini e vede e va ovunque. E poi mi raccomando, le lenti a contatto, se vanno usate, quelle giornaliere. Ecco. Perché comunque il sale che comunque ristagna su una lente a contatto giornaliera tende a disidratare la lente. Noi sappiamo di cambiarla per il giorno dopo, quindi non abbiamo questo problema nell'arco di un mese. Usa e getta, giornaliere. giusto? Sì, questo è un sinonimo, okay. Sì. Sì, Marta da Milano, buongiorno, mi dicono dalla regia che è pronta per rispondere al nostro domandone o quizzettone. Sì. Marta, allora, buongiorno. Buongiorno a tutti. I meandri della memoria mi fanno, quando avete fatto la domanda, mi hanno fatto venire in mente Archimede con una lente offuscata dal nero fumo, con un vetro offuscato. Con un vetro offuscato dal nero fumo. Però senti, siamo nelle mani del dottor Lo Perfido, perché lui è il nostro esperto. A me mi ha dato la risposta, ma è lui che ci deve dire. Dottor Lo Perfido? Posso? Archimede, se è giusta mi dice che è giusta, se è sbagliata non mi dica subito la soluzione, perché abbiamo anche altri ascoltatori. No, io ritengo che questa sia sbagliata e fa parte della storia anche quello che ha detto l'ascoltatrice. È vero che esiste questo, ma non è stato il primo, possiamo definirlo il secondo. Allora. Il secondo, Marta, per un pelo, per un ometto in meno ci arrivava. Grazie Marta, e a Marta auguriamo naturalmente una buona giornata, e se vai in vacanza, buone vacanze. Abbiamo invece Francesco che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno a lei, signor Francesco. Dunque, io lessi, ma questa è qualche cosa che si perde un po' negli anni, poi non so fino a che punto possa essere vera, perché... Si butti, Francesco. Prego? Si butti, Francesco. Ecco, per conto mio, per quello che ho letto, è stato l'imperatore Nerone che con un grosso smeraldo si proteggeva o tentava di proteggersi dalla luce solare. Dottor Lo Perfido, Francesco da Roma... Giustissimo. Perfetto. Vede. Fede, era lui. Era benissimo. Quel Nerone lì. Che voi con dottor Lo Perfido vogliamo aggiungere una breve spiegazione. Lo faceva appunto perché? Sì, allora Nerone soffriva, si dice, di fotofobia, quindi sì. Lui per proteggersi dal sole usava questo grosso smeraldo soprattutto in occasione degli anfiteatri, delle grosse gare che c'erano negli anfiteatri, quindi usava questo lente per proteggersi. Ecco, noi possiamo usare gli occhiali da sole. Devo salutarvi, ringrazio il dottor Lo Perfido, dottor Scialdone. Grazie a voi, buona giornata.